cosa, che voi siete dei giornalisti meravigliosi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, buon lunedì. Questo weekend ci ha lasciato un sacco di temi, quindi tutti convocati come al solito 800240024, oppure messaggi SMS, ma soprattutto WhatsApp, che sono molto interessanti. Bravi ragazzi, 349-238-6666. Alessandro Marco Tulli e Giovanni Melchiori oggi con me e Gianmarco Ferronato in regia. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Bene, l'Inter sicuramente bene, eh? Va a dormire da sola nel lettone. Da sola nel lettone, e dando ieri sera anche una sensazione un pochino più brillante rispetto alle altre partite, premesso che poi alla fine a Mancini sarebbe andato benissimo vincere anche 1-0 con altre 21 parate di Indanovic, sì. Ma insomma, perché fanno parte ovviamente del gioco, però la vittoria di ieri secondo me, anche per la pressione che aveva addosso l'Inter ieri sera, perché pure questa insomma, sembrava la classica buccia di banana. Sì, però non ti dà l'impressione di essere una squadra in grado di sbagliare partite come questa, eh? Fammi salutare Maurizio Crosetti da Repubblica. Ciao ragazzi. Ci vediamo stasera, lo sai, Gross? Sì. Me l'hanno detto. Non si parla d'altro. Me l'hanno detto. No, stavamo dicendo di... Guarda, sapete cosa vi dico? L'Inter da ieri, nel mio personalissimo ranking che non conto un tubo, ha superato la Roma ed è alle spalle del Napoli nella corsa verso quella cosa che, un po' comicamente, Sarri non vuole pronunciare. Maurizio. Sì, ci sta, anche se prima bisognerebbe capire se dobbiamo parlare di Inter o... di internazionali, perché abbiamo una squadra diversa per ogni partita. A questo punto ho il sospetto che l'Inter non ci sia un concetto astratto, ma ci siano numerose, quasi infinite interpretazioni dell'Inter. Sto scherzando, in realtà l'Inter è una cosa robusta, compatta, che non sempre gioca bene, ma qualche volta sì, tipo ieri sera, che ha la potenza di un diesel e quando vuole l'estro di un motorino nell'ultimo scatto verso il gol. Quindi è una squadra molto completa, meno bella del Napoli, secondo me anche meno forte del Napoli, però non si può dire adesso, il Napoli avrà bisogno di maggior continuità, però certo non prende gol ed è più forte davanti, perché anche l'Inter ha un buon estro, ma non ha insigne. No, davanti il Napoli è mostruoso per il campionato italiano, l'Inter appunto. Ma Pierluigi, secondo te, come dice Maurizio, l'Inter è diversa ogni volta, questo è un elemento di forza o di debolezza? O Mancini davvero ha in mano la situazione in modo così totale da potersi permettere? Questo è un elemento di forza perché l'Inter, se guardiamo la somma di talento dell'Inter e la quantità di soluzioni, è una squadra da scudetto. Non lo è, secondo me, dal punto di vista sicuramente estetico, che è un dettaglio, dal punto di vista della brillantezza, ma solo perché ci sono squadre migliori di lei, una su tutta, secondo me, è il Napoli, dal punto di vista, ripeto, della qualità del gioco. Però, secondo me è un segno di forza. Guarda, io te la riassumo così: se l'Inter rimane questa, per me non vince il campionato. Però l'Inter ha al suo interno delle potenzialità che fin qui si sono viste soltanto in parte. Una tra tutte è chiaramente Icardi, è la più semplice, è la prima che viene in mente. Icardi è in margini, ha dei margini di miglioramento che, se si dovessero realizzare, a quel punto le cose diventano diverse. Poi c'è il mercato, per carità, il mercato di gennaio non è quello estivo, però è comunque un luogo nel quale, se becchi un paio di mosse fatte bene, puoi crescere. Poi c'è tutto il discorso legato agli infortuni. Sono quattro squadre lì in corsa, mettiamoci anche la Juve, diventano cinque che possono essere in corsa per il titolo, e sto chiaramente in maniera surrettizia introducendo un altro possibile tema. Bisognerà capire anche chi avrà meno problemi da qui fino alla fine della stagione, no? Sì. Quindi c'è anche questo. Maurizio, c'è la Juve? Ha ragione Pierluigi? Sì, c'è sicuramente, c'è come numeri, come punti recuperabili, ma c'è soprattutto come sostanza di squadra, che era una cosa informe, smarrita, che vagava, e adesso lentamente sta trovando un assetto, forse anche una formazione tipo, anche se il miglior centrocampo prevede che Dira che sia di nuovo fermato, e anche se la qualità del gioco ancora non è all'altezza di una squadra da scudetto, anche contro il Milan in una partita che pure la Juve doveva vincere e ha vinto in maniera importante. I tre punti sono stati acchiappati da una grande giocata di Dybala, dopo un primo tempo inguardabile, con un secondo tempo discutibile, ma si sa che la Juve è un cantiere, insomma, un cantiere che non potrà restare aperto in eterno, sì, se vuole vincere lo scudetto. Ma chi vuole vincere lo scudetto, secondo me, deve fare i conti con la Juve, che al ritorno, tra l'altro, avrà tutti gli scontri diretti. Che non è un dettaglio, perché è una di quelle cose, una di quelle cose che poi possono fare la differenza in un campionato nel quale comunque le grandi viaggiano con la loro marcia propria. Quindi il fatto che ci saranno Juve Napoli, Juve Roma, Juve Inter, quella Fiorentina, in realtà vale per tutte e due, perché fra poco ci sarà Juve Fiorentina e nel finale di stagione Fiorentina Juve. Però insomma non può essere considerato un dettaglio. Io credo che lo scudetto della Juve sia un'ipotesi meno probabile di altre. Ripeto, ho l'idea che il Napoli, cioè c'è una parte del mio cervello che mi dice: guarda che il Napoli è più forte di tutti e può andare in fuga. Questa è una parte del mio cervello, io ve la dico a costo di essere preso, ma sarà importante per molti aspetti da un mese e mezzo più o meno. Però è ovvio che ci sono mille variabili. Ad esempio, va detto che la Roma, i due punti che ha perso a Bologna, li ha persi su un campo incredibile, dopo aver perso Gervinho e Salah, che comunque sono due, cioè come se il Napoli avesse perso Insigne e Callejon, come sì, una se cosa del genere, avesse perso Dybala e non so chi altro. Quindi ha perso questi due punti pareggiando all'ultimo minuto su un terreno terribile con mille aspetti. Sì, però ti posso dire, tra un attimo dopo il traffico ne parliamo, volevo proprio affrontare questo argomento. Garcia mi fa venire un sacco di dubbi, perché va bene il terreno, non si doveva giocare per rispetto al pubblico, alle squadre, a rischi di infortuni eccetera eccetera, però l'arbitro ha detto: vabbè ragazzi, per me si gioca. E quindi secondo me potevi affrontarla in un'altra maniera, potevi approcciare in un'altra maniera quella partita. Traffico. Non avete niente altro da fare? Buongiorno a tutti. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Non posso rispondere su delle domande di calcio, perché di calcio non si parlava vedendo questa partita. È stata una paradia del calcio e non è una cosa che mi piace. Se piace a qualcuno va bene, ma era chi spingeva la palla meglio degli altri in avanti per non prendere rischi. È come la lotteria, poteva cadere su vittoria del Bologna, vittoria della Roma, e alla fine è uscito pareggio. Poi non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi, era prevedibile che un po' calassero, comincia anche a piovere tutto. Allora, Garcia, dicevo, mi sta convincendo poco, non tanto perché è per distacco, ora stante l'assenza di Mazzarri che abbiamo ripescato dal repertorio in una ben nota dichiarazione, non tanto che perché è per distacco il più rumoroso piangina del campionato, quanto perché ha grandi responsabilità, dicevo, non so se Maurizio Crosetti condivide o Pierluigi Pardo condivide, sbagliato l'approccio, perché l'arbitro dice: giochiamo, tu non devi piangere davanti ai giocatori, ma come si fa, ma perché giochiamo? No, devi dire: ok, oggi poi si gioca a pallanuoto, giochiamo a pallanuoto. Poi soprattutto io non sono d'accordo quando Garcia dice che non è calcio, perché il calcio è anche quello. Certo che il calcio nella sua accezione ideale è una cosa che si gioca con la tecnica sopraffina sull'erba perfetta all'asciutto, ma ci sono state e ci saranno tante partite in cui si gioca in un altro modo, non soltanto con la tecnica, e questo non è un altro sport, secondo me, salvo i casi estremi. Certo, se non rimbalza il pallone, no. A Bologna in effetti c'era una specie di lago d'Orta sulla fascia sinistra, guardando da destra a sinistra, probabilmente c'erano anche delle carpe, forse dei lucci che sì, nuotavano lì sotto, però poi invece dall'altra parte era un po' più asciutto. Comunque voglio dire, se vai in bici sei pronto alla Parigi-Roubaix come sei pronto, che ne so io, alla discesa sul terreno che è un biliardo, che ne so, la discesa delle Dolomiti. Se giochi a pallone metti in conto che qualche volta ci possa essere il fango, e nel fango, viva Dio, ci sono anche delle qualità comunque atletiche, agonistiche, psicologiche, che fanno parte del gioco del calcio, che certo, non sono una lotteria. Sì, certo, sì. Assolutamente. Io condivido. Posso, allora ti dico, la provocazione, mettere Mazzarri era una provocazione, quella roba lì non c'entra niente. L'altro giorno oggettivamente la Roma ha ha avuto un danno come ebbe un danno la Juve a Istanbul, a giocare su quel campo, no, sì, Perugia, ma anche il campo di, cioè, voglio dire, quando c'è una partita di quel tipo su un terreno terribile, la squadra più debole dal punto di vista tecnico viene sempre avvantaggiata. Questo è un dato di fatto oggettivo. Però poi esiste quello che diceva Maurizio, cioè esiste comunque la capacità che una squadra deve avere nel calarsi in un certo tipo di situazione. Esiste comunque una partita che in un modo o nell'altro è riuscito a far girare e l'avevi portata sul risultato di vantaggio e l'hai pareggiata per un errore individuale di Torosidis. Gli errori individuali della Roma sono il problema. Cominciano a diventare troppi, eh? Sarri ha corretto le cazzate di Koulibaly o di Albiol e adesso è diventata una difesa imperforabile anche quando entra Kirikest. Garcia non è ancora riuscito a fare la stessa cosa e non ci sono grandi segnali di miglioramento. Mi ha molto colpito una cosa: allora, si è giocato a Bologna martedì con la nazionale e sabato Bologna-Roma, due partite nello stesso stadio simili, nel senso che la squadra più forte, che diciamo è l'Italia e la Roma, fa un pessimo primo tempo, va sotto 1-0, la ribalta e concede gol nel finale. Sì. Prendiamo le dichiarazioni di Conte e prendiamo le dichiarazioni di Garcia. Ecco. Conte esce da quella partita, che tra l'altro è un'amichevole, della quale quindi alla fine... Arrabbiato come una pantera. Meno. Arrabbiato come un pazzo criminale nei confronti della sua squadra. Lo sarà stato anche Garcia, per carità, all'interno dello spogliatoio, non... c'è sempre una dimensione di distacco, questo pubblica. È chiaro. Però è abbastanza impressionante la differenza. Al netto del fatto che poi, ripeto, non è che Garcia ha ragione, nel senso che la partita su quel campo lì non era giocabile e sicuramente delle due squadre quella che ha avuto un danno è stata la Roma. Quindi su questo non, secondo me non ci sono dubbi. Ma così come sarebbe stata la Juve se avesse giocato. Ma quindi comincia ad avere anche tu dei dubbi su Garcia, perché quante volte abbiamo sentito anche i giocatori parlare di approccio sbagliato alle partite, e l'approccio, cioè l'abbrivio, aspetta al manico darlo, no? No, ma la Roma è cresciuta, la Roma nell'ultimo mese e mezzo è cresciuta. I dubbi su Garcia potevano essere più all'inizio che adesso. Secondo me la Roma ha svalicato, da Leverkusen in poi è una squadra migliore. E lo dimostrano i fatti, è cresciuta, si è portata al secondo posto nel girone di Champions League, ha vinto partite importanti, ha vinto il derby, ne ha persa una contro l'Inter, ma nella quale comunque ha costruito mille occasioni. Secondo me la Roma è in crescita complessivamente, però continua a fare troppi errori, continua a non essere cinica come dovrebbe essere. Con Leverkusen poi gli è andata bene perché ha trovato il gol del 3-2, perché è stata brava, ci ha creduto, certo, e l'ha vinta sul rigore. Però ha avuto anche lì un approccio al secondo tempo lì, che è stato abbastanza disastroso. Napoli va in vantaggio e Napoli ha una solidità clamorosa. Maurizio, sei d'accordo con quanto diceva Pierluigi sulla Roma? Ed è quello che non c'era, pur avendo cambiato solo, e hai detto niente, l'allenatore. Perché poi alla fine è lì che si va, no? Non è che dici Napoli quest'anno ha comprato due centrali pazzeschi, due terzini e due mediani che corrono e tornano e fanno tutto, e dunque è diventata una cassaforte. E più o meno sono quelli dell'anno scorso, con un rendimento migliore, con un altro allenatore. Ieri è stato proprio chiesto a caldo, l'altro ieri, insomma, Insigne, cosa c'è di diverso, e lui ha detto l'allenatore. Sì. Alla fine vallo a dire a Cristiano Ronaldo, infatti, che altro aggiunge? Anche Insigne poteva, forse anche Insigne avrà detto o io lui, può anche darsi, ma sì, ma anche Higuain l'ha detto, ma sicuramente l'ha detto, anzi credo sia comprovato, perché insomma Higuain con Benitez non andava d'accordo, e questo è il miglior Higuain della carriera, cioè secondo me uno dei primi 5 attaccanti del mondo. Possiamo però poi... è bellissimo anche proprio l'idea, il pensiero che un allenatore sicuramente di grande livello, con una carriera importante, anche se ha campato un po' di rendita su quella finale incredibile contro il Milan, cioè Benitez, abbia quasi fatto passare la voglia di giocare a un fuoriclasse, che l'ha ritrovata con un tecnico di una certa età, con un percorso che lo porta ad essere di fatto un debuttante quest'anno su una grande panchina, e questo spiega anche le alchimie che alle volte scattano, e non c'è per forza un percorso segnato per cui un grande giocatore rende con un allenatore importante e poi non può essere stimolato dall'ultimo arrivato, che ultimo non è. Anche questa è una bella lezione. Chi pensa di saper tutto, di aver inventato il calcio, Sarri sta dicendo cose molto importanti al campionato. Sì, questo... Sarri sta dicendo non solo al campionato, sta dicendo all'Italia, all'Europa, al mondo una cosa molto, cioè è una metafora molto sottile della quantità di talento che per tutta una serie di circostanze della vita non viene fuori, nel senso che c'è stata la grande possibilità che Sarri non arrivasse ad allenare una squadra come il Napoli. Chissà quanti altri come lui, magari non molti, ma qualcun altro come lui ci sarà, che non riesce ad avere la possibilità di emergere, non gli viene data la possibilità. Quest'anno è stata data la possibilità a Sarri, come è successo 20 anni fa con Sacchi, e sta dimostrando cose eccezionali. Poi è ovvio che per un Sarri, per una storia di successo, ce ne sono 10 che non vanno, altre che non però funzionano. È la dimostrazione che non dobbiamo farci prendere. Ci sono delle persone nella vita che non hanno avuto la possibilità, e finché non ce l'hanno non sai se sarebbe stato un fallimento o invece un sì, è curioso anche notare, per chiudere con Maurizio Crosetti, anche questi destini paralleli, queste sliding doors tra Sarri e Mihajlovic, no? Uno da una parte, uno dall'altra, e poi prendono improvvisamente le direzioni opposte. Sarri sta facendo questo, Mihajlovic ha una squadra inesistente sotto ogni profilo, compreso quello agonistico. Sì, anche perché il Milan è una specie di mostro carnivoro che si mangia qualunque allenatore, sia le polpettine friabili, facili da ingoiare, come i poveri debuttanti Inzaghi e Seedorf, sia un allenatore navigato, sicuramente bravo, preparato, con un carattere e due attributi d'amianto, d'acciaio, però non, anche non sarà lui, una leggenda questa poi alla fine, squadra, perché non riesce a trasmettere niente. Anche perché comunque nemmeno lui sta riuscendo a dare un progetto di gioco al Milan. Contro la Juve davvero è stato imbarazzante, c'era una squadra debole che sperava di buttare la palla in avanti e che forse nascesse qualche contropiede, una dimostrazione di debolezza che altre presunte piccole del campionato non si sognerebbero mai di dare. Penso all'Empoli che è andata a Firenze, sì, con quel figlio. Empoli che peraltro gioca molto meglio del Milan, ecco, non è no, e fra l'altro è anche un attacco alle nostre etichette. Cioè? Perché Mihajlovic, che sicuramente adesso non è che per questo inizio di stagione deve essere considerato come un allenatore scarso, perché comunque delle cose le aveva dimostrate in carriera, però è andato al Milan, c'è andato soprattutto perché sembrava che servisse l'uomo d'ordine con la mascella in fuori, sì, no? Il personaggio che, e poi alla fine Sarri tra una sigaretta e l'altra riesce a far funzionare le cose meglio di lui fino a quel momento. Sì, anche perché Sarri ha piedi eccezionali a disposizione, e i piedi vengono prima delle mascelle, no? Nell'anatomia del calcio, prima il piede e poi eventualmente la mascella. È ovvio, esatto. Grazie Maurizio. Grazie a voi, ciao. Alla prossima, ciao. Grazie Maurizio Crosetti. Sentiamo Cesare, provincia di Venezia, prima della borsa. Cesare, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie. Volevo dire una cosa: il grande Garcia secondo me deve essere un lontano parente di Mario Merola, perché deve smetterla di piangere ogni qualvolta che c'è qualcosa. L'anno scorso mi ricordo una partita con la Juve e aveva l'arbitro contro, quest'anno il tempo che il campo non era bello. Io mi ricordo, come ha detto il grande Pardo, noi abbiamo perso da Juventini un campionato contro il Perugia. E questo ricordano molti. Questo e abbiamo perso una Champions col Galatasaray, però siamo stati zitti, abbiamo messo via e siamo andati avanti. Beh, zitti neanche tanto, zitti neanche tanto, Cesare. Però ha ragione, alla fine poi conta il campo. No, guarda, voglio ribadire questa cosa: dove la Juve è stata veramente zitta è stata nella finale di Berlino, quando comunque c'è stato un episodio sul quale si può discutere, perché non è detto che fosse rigore al 100%, però è un episodio che in quel momento della partita, insomma, l'ha cambiata, e lì sono rimasto veramente colpito dall'assoluta superiorità, un po' anche perché erano arrivati tanti complimenti eccetera, però insomma. Beh, però quantomeno lo ricordi, no? Cioè, quantomeno sottolinei le zero, ci fu, dai, ci fu. Giustamente, lo capisco, ma io capisco pure Garcia l'altro giorno, cioè non ti sto dicendo che per me nella sostanza ha ragione. Però l'importante è che all'interno dello spogliatoio abbia detto altre cose, perché se all'interno dello spogliatoio ha detto ai giocatori che hanno pareggiato perché era waterpolo con i piedi, secondo me. E trovato l'alibi, gli ha subito scodellato l'alibi, e i giocatori sappiamo che lo prendono al volo palleggiando di tacco, come in un video meraviglioso di Ibrahimovic. Allora, ci fermiamo per la borsa. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta... Si ricomincia! convocati. Jajic cerca l'1-2 con Icardi. Jajic in area. Jajic tocco corto, porta vuota. Icardi, raddoppio dell'Inter. Io faccio parte degli scettici, quindi non è, ma è, perché penso che il campionato sia lungo e, come ho detto, ci sono squadre molto più forti e attrezzate di noi. Quindi poi, se alla fine i ragazzi sono così bravi da meritare di vincere, bisognerà fare un applauso, però il campionato è lungo, sarà pieno di difficoltà e quindi credo che noi dobbiamo lottare per cercare di arrivare in zona Champions League. Questo è il nostro obiettivo. Arriva quasi nella zona di tiro di fronte di Agdil. Jajic si sposta il pallone. Jajic, Brozovic, rete! L'Inter cala il poker! L'Inter cala il poker! Credo, come ho sempre detto, e non cambio opinione, che ci sono almeno 3-4 squadre che sono più organizzate e più forti di noi in questo momento, perché giocano insieme da più tempo e hanno una squadra diversa dalla nostra, più pronta per vincere. Quindi siamo felici di essere lì. Lì dove l'Inter non era da un sacco di tempo, per Luigi Pardo. Sì, sì, assolutamente. No, ma Mancini ha dei meriti. Fa bene a nascondersi, secondo te? Sì, fa benissimo a nascondersi, perché chiaramente, insomma, perché andarsi a cercare guai e rogne dal punto di vista mediatico. E poi perché l'Inter sicuramente può rimanere lì solo se conserva questa tensione e questa concentrazione, che è stata la nota migliore della squadra. Perché nei tanti 1-0, che sono un po' la cifra stilistica dell'Inter di quest'anno, c'è un'abitudine alla sofferenza, alla resistenza, al saper soffrire, che è il tratto principale di questa squadra, ed è molto importante, ed è molto positivo, è la grande forza, perché vincere tante partite 1-0 vuol dire che tu sei sempre praticamente sul filo ed è per questo che ti dico che l'Inter non dà mai l'impressione di incertezza quando deve affrontare le avversarie più deboli. Sono molto curioso di vederla al confronto diretto con il Napoli, e ti butto lì anche un'altra cosa: se è vero che il Napoli ha la miglior coppia offensiva del campionato per distacco, Higuain insegna in questo momento, l'Inter ha forse la miglior coppia di centrali del campionato in questo momento. Sicuramente, ma poi ieri ha fatto turnover perché ha lasciato mezzo centrocampo fuori. L'Inter ha una forza, insomma, io sto cambiando idea, poi rimango dell'idea che il Napoli abbia qualcosa in più, però l'Inter sta dimostrando delle cose, cioè nelle ultime partite, dopo quella fase di, perché poi il campionato dell'Inter per ora è diviso in 3 cicli, le prime vittorie abbastanza fortunose, il calo, il crollo con la Fiorentina, al quale poi sono seguiti altri pareggi e prestazioni non brillanti contro il Palermo, prima ancora contro la Samp. Sembrava una squadra che si stesse riallineando verso una classifica, secondo me, un pochino più normale, da fra quarto e sesto posto. Sì. E poi però sono successe delle cose, alcune vittorie sono state anche un po' fortunate poi alla fine, sempre per le grandi prestazioni dei singoli. Uno su tutti è Handanovic, che ha credo la più alta percentuale di parate dell'intero campionato. Ma fa parte del gioco, insomma, c'era l'Inter, non c'erano altre squadre, lo paga l'Inter, per cui non è che gioca da un'altra parte, non è che gioca il bonus, appunto, gioca il jolly, è il suo portiere, sta facendo cose eccellenti, no? Quindi attenzione, ripeto, secondo me oggi il Napoli è più forte, però sì, l'Inter ha il vantaggio, sai, al vantaggio anche di non patire in questo momento, e lì secondo me è un grande merito di Mancini, ma ne parlavamo prima, di non patire il cambio degli interpreti, né il cambio della scenografia, cioè quella dello schema tattico, né quello degli attori protagonisti. Fino adesso, guarda la Fiorentina di ieri, anche il Napoli non può fare a meno di certi giocatori, ma come normale e fisiologico che sia, la Juventus patisce in questa faticosa costruzione, l'Inter invece è quella che fino adesso non... Gli ha dato una quadratura, prima di tutto difensiva, prima di tutto fisica, muscolare, a questa squadra, gli ha allungato la rosa sicuramente rispetto all'anno scorso, ha fatto una scelta, se vuoi anche proprio una scelta, nel momento nel quale tu ti togli giocatori come Kovacic ed Hernanes e scegli dei mediani, invece dando un'investitura così profonda e precisa a Medel, prendendo Felipe Melo, cioè vuol dire che da un certo punto di vista Mancini ha abdicato all'idea di un calcio estetico, però umorale, che era il calcio di, nel senso che se tu non hai se tu non hai il Pirlo di 10 anni fa, ma hai Kovacic, hai Hernanes, cioè hai dei giocatori talentuosi ma discontinui, sì, forse tanto vale fare una scelta di tipo diverso. È quella che ha fatto Mancini, sì, ha, sì, scelto di fare un centrocampo di rottura, una difesa blindatissima, e davanti qualcosa succederà, davanti... e questo per ora funziona alla grande. Anche guarda che perché c'è stato un super, guarda che c'è Ciccio Valenti che, ecco qua, che non si ricordava più questo senso di vertigine. No, allora intanto io ringrazio il signore che ha illuminato e ha aperto la visuale anche al nostro Pardo, che ha capito perfettamente e adesso finalmente ammette questa cosa. No, no, grazie signore. Ieri ho anche ritwittato, ma l'ha capita adesso? Cioè, qual è la pecca di Pardo? La differenza è che l'intervista vero l'ha capito anni fa, perché faceva riferimento a Mancini, che come giocava ai tempi giocava alla stessa maniera. E adesso la situazione è questa. Certo, ai tempi c'erano giocatori differenti, però il concetto era sempre lo stesso. Però Ciccio, te l'aspettavi? Devo essere sincero, non voglio fare le chiappe. Un mese fa te l'aspettavi che l'Inter sarebbe arrivato? No, allora, devo essere sincero, sì, un mese fa sì, ma devo essere sincero, per lui è stato uno di quelli dei primi che diceva non capisco ma mi adeguo, cioè nel senso non capisco, sì, però mi rendo conto che... E quindi da buon contabile trovava alla fine la giusta dimensione. Però io mi ricordo una puntata di Tiki Taka, trasmissione strepitosa a cui vado volentierissimo, e tra l'altro vedrà prossimamente, penso, qualcosa di, sì, secondo me unico con Capopopolo Pardo, una trasmissione dove abbiamo fatto due blocchi iniziali su questo grande momento del Milan, e a un certo momento non Pierluigi ma qualcun altro si mise a parlare della capolista di allora parlando di crisi dell'Inter. Oh, basta, mo siamo primi, tanta crisi non c'è. Beh, ma qualcosa è cambiato però, Giacomo, qualcosa è cambiato, cioè ha ragione Pierluigi quando dice che l'Inter è cresciuta, è ho capito, ma cosa è cambiato? Che Jovic dice bravo e no, che Jovic dice bravo, cioè, ma quello è perché il motore è sempre lo stesso. Beh, insomma, secondo me anche Biabiani rischia di diventare un giocatore tutt'altro che marginale nell'Inter, perché l'Inter ha bisogno di velocità, di adrenalina, quindi vedi che è importante, perché ieri c'era da fare questo tipo di partita. Secondo me la partita di Napoli è una vera, sì, è una vera sfida, però insomma, sono d'accordo. Se uno va a analizzare anche il 4-1 con la Fiorentina, ora non voglio fare l'interista incarnito, 4-1 con la Fiorentina ha avuto delle dinamiche abbastanza particolari, perché il primo, poi rigore, poi l'espulsione, poi due fuorigiochi, anzi prima ancora, sì, sì, no, mezz'ora, cioè, sarebbe stato diverso come tipo di proporzione, magari con una Fiorentina che allora probabilmente era più forte dell'Inter, giocava sicuramente meglio, però sono, le partite sono quelle. Poi insomma, chi gioca bene era la Cremonese di Mondonico, del nostro amico, lo ripeto, il nostro amico Mondonico è retrocesso abbastanza velocemente, ma anche Napoli, però dai, anche Napoli gioca, è una bella cosa da vedere, la Fiorentina è una bella cosa da vedere, salvo ieri, capito, dove è una bella cosa da vedere secondo me quando la tua squadra del cuore segna, siamo tutti felici, ma perché ieri ha giocato male l'Inter, no, insomma, e allora, cioè, perché quante sono le partite che si possono vincere 1-0? E insomma, io ho visto cambiare le carte in tavola per il Milan, la critica finalmente, tanto finalmente no, comunque i punti poi sono tanti di distanza. Ma proprio il Milan, che era una squadra mostruosa, quello di Capello, vinse un intero campionato, cioè passò un intero campionato vincendo 1-0 e dominando. Ma ho capito, ma la gente era felice di andare allo ma stadio, sicuro, ma uno non... che ai tempi stava parecchio tempo a maggio con le tapparelle abbassate perché loro festeggiavano. Ma guarda, ma non ne stiamo parlando male dell'Inter, sì. No, ma assolutamente. Fra l'altro il dato, anzi, secondo me più impressionante, del quale si parla poco, è che 4 dei 7 gol l'Inter li ha presi in una partita. Quindi vuol dire che nelle altre 12 ne ha presi soltanto 3. 12 per 90 fa 1080 più. Grazie signore. No, sento Pardo che va avanti con le sue gambe, grazie. No, è un gol ogni 6 ore. Cioè, se tu levi una partita sbagliata, è il famoso discorso che è meglio perdere una volta 4-0. Siamo buoni perché dobbiamo andare a Napoli e davanti a un attacco che è strepitoso. No, certo, però voglio dirti, guarda che impressionante. È impressionante. Scusami, Ciccio al volo. È impressionante l'abitudine a stare sul filo. Perché guarda che vincere così tante partite con un gol soltanto di scarto vuol dire che tu stai continuamente sul filo. Quindi questa roba qui, da un lato, vuol dire che non sei capace fino a ieri a vincere una partita con più di un gol di scarto, quindi puoi vederla in negativo, ma puoi anche vederla in positivo, perché vuol dire che tu sei abituato a stare mille volte sul filo dell'errore e non lo fai mai. Vuol dire grande autostima. Non è che facesse apposta l'Inter a vincere 1-0 e basta, cioè, magari avrebbe voluto vincere anche di più, però dietro era micidiale. Infatti non so se per esorcizzare stamattina io ho twittato quella cosa bellissima dicendo che proprio secondo me l'ironia e l'intelligenza non hanno colori, con Higuain sul balconcino di Giulietta, che è una cosa secondo me strepitosa con le braccia alzate, ma penso che anche a Verona possano aver riso di una roba così, sì, perché sono quelle cose che sono certo. Almeno quelli intelligenti che non fischiano selvaggiamente, era riuscito a pagare una partita, a perderla, secondo me quelli sono colpi di genio assoluto, insomma. E quindi l'ironia è l'ironia. Dimmi un'ultima cosa, Giacomo. Hai paura a pronunciare, come Sarri, a pronunciare quella parola? Condividi il nascondino di Mancini? Ma secondo me non è un problema di paura, è un problema che è fuori luogo, perché comunque... Come fuori luogo? Siete primi in classifica? Sì, no, ma è fuori luogo. Allora, intanto non ho paura a dire che secondo me l'Inter è prima in classifica e sono felice e reputo meritata la cosa. Perché comunque non sono più quelle partitine di cui qualcuno parlava all'inizio, quando fai 12-13 giornate secondo me hai, insomma, i numeri sono i numeri. Sicuramente la trasferta di Napoli è molto difficile, e poi comunque sia sei a un quarto, un terzo, no, del campionato, quindi insomma è assolutamente fuori luogo, non ha senso. Ciò non toglie che, come diceva Catalano, è meglio essere primi. Uh-huh. Ed è più facile arrivare in fondo primi che non essere ultimi per arrivare in fondo primi, e questo è normale. Grazie Giacomo, a presto. A voi, ciao. Traffico, torniamo subito. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia la radio poi si cazzeggia, né? No, sì. Tutti convocati. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. È ora di sentire un po' di ascoltatori. 800240024, numero verde. C'è chi scrive invece WhatsApp: sono abbonato al Chievo, ho visto a Verona, l'Inter e Napoli, due pianeti diversi, vedremo lunedì. Questo è Zeno. Un altro che scrive: sì, però questo stare sul filo, come raccontava prima Pierluigi, a me ha già provocato 7 infarti, mi sembra un po' eccessivo. C'è chi scrive: l'Inter ha vinto con la Roma in modo a dir poco casuale, eccetera, eccetera, eccetera. Francesco da Bari, cosa dice invece? Io dico che, riprendo il discorso sull'impraticabilità del Dallara. E secondo me i 25.000 spettatori che erano sugli spalti sono accorsi allo stadio, piogge tutto. Quindi voglio dire, perché non giocare a calcio sotto l'acqua? Seconda considerazione, vedo Mancini formato cappello trap. Che ne pensate? Cappello trap? Sì, beh, l'avevo detto mille volte, insomma, che l'1-0 è stato per esempio un tratto di fabbrica di un famoso Milan, un marchio di fabbrica del famoso Milan di Capello degli anni 90. Però squadra molto, insomma, più forte quella di questa come talento, come interprete era molto più forte. Però attenzione, ripeto, l'Inter ha dei margini secondo me ancora non assolutamente conosciuti, legati alla grande quantità di giocatori che ha a disposizione, e non a caso li sta mescolando molto bene, sì. Non ha le coppe europee, insomma, secondo me ci sono delle cose molto, sì, interessanti. C'è ancora Icardi che non è esattamente al centro del villaggio secondo me, però questo è un altro punto. Questa è una cosa che può essere positiva. No, certo, certamente. Con il tuo principe cannoniere che ha questo tipo di rendimento, non solo dal punto di vista realizzativo, ma proprio come di importanza e di peso specifico sulla squadra, non puoi che migliorare, perché Icardi comunque è un eccellente giocatore. Mi dice una prima di Federico da Bologna, Giovanni da provincia di Modena, un'impressione sulla Fiorentina cui abbiamo accennato prima, l'approccio anche qui alla partita di ieri, per motivi chiari, e poi Paolo Sosa si è autoaccusato, ha dimostrato un po' il limite, no, di questa Fiorentina, almeno nella corsa verso lo scudetto, cioè non può permettersi grandi deviazioni da quella che è la squadra titolare. Esatto, l'abbiamo visto anche in Europa League, insomma, ha delle difficoltà di turnover, ma bisogna partire da un presupposto: la Fiorentina sta facendo cose leggendarie, quindi questo è il punto di partenza, perché altrimenti sembra... Io continuo a pensare che sia un mezzo passo sotto Però ma per questo, probabilmente per questa ragione, non toglie nulla, questo non toglie nulla alla straordinarietà del lavoro che sta facendo. Per me oggi la Fiorentina ad oggi è la rivelazione del campionato. Sì, sì. Fiorentina e Inter sono le due squadre che sicuramente stanno facendo meglio, molto meglio di quello che si poteva immaginare. Ci possiamo mettere il Sassuolo a un livello un pochino inferiore. Uh-huh. Sono le tre squadre che hanno decisamente più punti di quelli che idealmente gli avrei attribuito alla vigilia. Quindi grandissimo lavoro. È chiaro che quando cambia molto come ieri, rischia. Perché un giocatore come Kalinic in questo momento non puoi regalare, e questa forse è una dei segreti di Pulcinella di questa Fiorentina. Cioè, nessuno si aspettava un giocatore di questo tipo, in tutta onestà. È meraviglioso non solo quando segna, ma anche come movimento in campo. È un giocatore, è il centravanti perfetto, il centravanti modello, secondo me, Kalinic. Anche da questo punto di vista. Sì, e poi sai, lui all'inizio dell'anno avevo detto che veniva da un campionato differente, no? Che era partito caldo perché veniva dalla stagione, e quindi insomma, invece sta continuando ad andare, quindi vuol dire che non era soltanto, diciamo, il vantaggio competitivo di avere, no, una stagione di tipo diverso, di venire una stagione di tipo diverso. Adesso siamo arrivati a fine novembre e mi sembra che continui a segnare con grande continuità, ed è l'anti-Higuain, se vogliamo, cioè è la cosa più simile ai Higuain che c'è in questo momento in Serie A. Dal punto di vista numerico non c'è dubbio, 10,9. Federico Bologna, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire qualcosa su Garcia, che secondo me più che lamentarsi dovrebbe solamente ringraziare, perché insomma, se non fosse stato per l'arbitro non avrebbe portato a casa quel punto d'oro che ha fatto Bologna, visto che gli ha regalato un rigore, ha annullato non è vero. C'era millimetrico il gol del Bologna sullo 0-0, ma siamo veramente a filo e non è stato dato. Poi c'era un rigore per la Roma per un fallo di mano di Avarà. Poi sui due rigori del secondo tempo sono due rigori ridicoli, ma che ci stavano, secondo me, così come ci stava il rigore del Bologna alla fine. Ha fatto degli errori da una parte e dall'altra, Dzeko poteva essere ammonito, insomma dai, è stato al classico arbitraggio con situazioni da una parte e dall'altra, perché sicuramente poteva concedere l'1-0 sul gol del Bologna, perché c'era il piede di Digne che lo teneva in gioco, anche se era difficilissimo. Però c'era rigore per la Roma, quindi quello su quello di Avarà era evidentissimo. Per cui, insomma, come spesso è successo quest'anno, mi ricordo sempre di partire, ho commentato io sempre con la pioggia, il famoso Sassuolo-Juve, tutti arrabbiati alla fine, da una parte e dall'altra, perché quando l'arbitro sbaglia in un senso e nell'altro, ognuno pensa che abbia sbagliato più contro di sé, perché la mente umana tende a ingigantire i torti subiti. Non che un arbitro ha arbitrato male in quelle condizioni, poi a prescindere dalla decisione di giocare o non giocare, ponendo che si ha deciso di far giocare la partita, una partita difficilissima da arbitrare, e secondo me, pur con gli errori che tu hai sottolineato, non ha arbitrato male quella partita. Quindi non credo che sia così tanto influente sul risultato. Ciao Pierluigi, buon tiki taka stasera. Grazie, che ora? Mezzanotte e 20, abbiamo recuperato una quarantina di minuti. Dopo le Iene, vabbè, insomma, siamo tonici. Ciao Pier. Ciao, domani. Ci vediamo per il GR. Giovanni, a provincia di Modena, ci aspetti. 800 24 00 24, numero verde. Poi parleremo anche di classico. Parleremo di una delle cose più comiche di questo weekend, e cioè non solo l'approccio del Real al classico, ma anche l'esonero dell'allenatore campione d'Italia di basket, Meo Sacchetti. Ridicolo. Bene, molto bene. Il Trapp apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani, e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Che dire, arrieccici. Convocati. Leggo questo messaggio: visto cosa sta combinando a Madrid, mi viene da pensare che anche a Milano Benitez sia stato il primo responsabile delle disfatte post triplete. Così Matteo su WhatsApp. Sì, vabbè, responsabile anche di alcuni attentati dinamitardi, della siccità e della fame nel mondo. Ciao, Filippo Maria Ricci. È sempre colpa di Rafa. È sempre colpa sua. Intanto, qualsiasi cosa. Sai che stasera incassa la fiducia, eh? Incassa la fiducia alle 19 c'è la conferenza stampa di Florentino Perez dopo il consiglio di amministrazione, no? Sì, la giunta direttiva. Giunta direttiva, che succede? Ratificano l'allenatore, non si capisce bene perché, ne parlavamo ieri, se ti ricordi, insomma, non ha molto senso, poi lo licenzieranno più avanti, quindi è un po' inutile tenerlo adesso e licenziarlo più avanti. Appunto, però, cioè, più o meno succederà questo. Non è possibile andare avanti così, no, ma anche cioè, perché non lo permette la squadra, non lo permettono i giocatori. No, cioè, se vuoi una spiegazione è che secondo me Florentino guadagna tempo, perché sa che ormai le carte a disposizione sono pochissime. Adesso c'è Rafa, poi magari verrà Zidane e poi è finita, poi deve andare via anche lui. Sì. E allora differisce un po' il tutto. Sai guadagna cosa? Tempo. Sai che stamattina hanno chiesto al reapparecido Carletto Ancelotti se tornerebbe ad allenare il Real Madrid? Questa è la risposta. Arriva, arriva. Preferisco stare fermo un anno, anche perché ho avuto tre esperienze nella mia carriera. Una è stata al Milan, che ho avuto molto di... la Juventus primo, quando sono arrivato a gennaio ho incontrato tantissime difficoltà, il Milan e il Paris Saint Germain. Sono state tutte e tre esperienze negative e quindi preferisco aspettare. Preferisco aspettare, ma non lo escludo, nel senso la risposta è questo. Giusto, per me comunque è difficile che possa tornare, perché per Florentino Perez sarebbe un colpo difficile da assorbire. Il problema è che lo stesso Florentino Perez era bersaglio principale delle contestazioni dopo quel classico vergognoso da Zerbino. Cioè, fa ridere questa cosa che lo stadio contesta il presidente e il presidente fa una conferenza stampa per appoggiare l'allenatore, però lo stadio non ha contestato l'allenatore, no? Sì. Su questo è un'altra cosa che secondo me i nostri ascoltatori possono farsi due risate. Oggi su Marca c'è una discreta rivelazione, dice che il soprannome di come chiamano Rafa Benitez i giocatori? Il 10. Perché non ha mai giocato a calcio. Sì, la ferocia, che la fiducia nei confronti di questo allenatore sia sempre stata zero, insomma, penso sia una cosa ormai provata, no? Cioè, sì, questo è il grande problema. Io l'ho scritto oggi, ma dico, come se ne esce, come attorno a cosa si compattano? Non saprei, non certo intorno al totem Ronaldo, che non ne vuol più sapere, quindi. Esatto, lui non ne vuol più sapere. Adesso Ramos se ne va un mese, si ferma, perché giustamente c'è una spalla mezza rotta, si ferma. Quindi i due principali, diciamo, leader dello spogliatoio in questo momento sono più o meno fuori. Cioè, Ronaldo continua a giocare, ma non mi sembra che gli interessi più di tanto. Restano le figurine di Florentino. Cioè, che Gareth Bale, lo stesso James, Isco, gente che non ha qualità del leader. Manca un leader a questa squadra. Ci sono tanti grandi giocatori, ma manca un leader. Volendo ce l'avrebbe anche. Volendo i leader li avrebbe anche. I due che hai menzionato prima, cioè quello che si ferma e quello che non vuole più giocare, sarebbero leader di questa squadra. Il problema Ramos ha fatto il suo, cioè doveva fermarsi un mese fa. Sì, quindi non posso. E Ronaldo, io ti dico che per tanti versi lo capisco anche. Cioè, questo ha segnato 60 gol a stagione, hanno vinto solo una Liga, non sarà mica solo colpa sua. Su 6, capito? Vuol dire, lui i suoi gol l'ha fatti. Sì, Florentino i suoi soldi li ha spesi, questi numeri li conoscerai benissimo. 1269 milioni nella sua storia da presidente del Real Madrid, divisi in due fasi, da quando è tornato nel 2009 ne ha spesi 883. Per vincere una Liga. Voglio chiederti un'altra cosa prima di salutarti, perché mi sa che sei in attesa di conferenze stampa su Barcellona-Roma o qualcosa del genere. No, già fatta. Che hanno detto? Dice lì che è simpatico, ha fatto il romanista, gli hanno chiesto, dice, però non ti dispiace, potresti essere il giustiziere della Roma? E dice, mi dispiace, io faccio il mio, però poi dopo si faranno i conti alla fine per vedere dove sono stati persi i punti, come dire, no? Magari se non perdevi col Bate Borisov, forse era meglio. Forse sì, era meglio. Io non ero il tuo giustiziere, però so. E poi bellissimo, Dani Alves, 20 domande, neanche una sulla Roma. Sulla partita, cioè la partita non è stata considerata. Ma anche perché visto il Barcellona di sabato, perché c'è anche il rovescio della medaglia di questo classico pazzesco, no? Il rovescio della medaglia sta in un Barcellona che, guarda, te la dico grossa, è il più bel Barcellona che io ricordi, quello di Guardiola compreso. A me piace di più, questione di gusti, perché verticale, più veloce, più cose. Certo, più cose. Perché, cioè, io sono con te, perché al tempo era un Barcellona fenomenale e giocava il suo tiki-taka, cioè ce l'ha fatto conoscere, e benissimo. Adesso hanno quello, perché il primo gol, io l'ho scritto oggi, 1 minuto e 45, no? 40 passaggi, 10 uomini che toccano la palla, però c'è anche la verticalità. Sì. Devono, cioè, poi c'hanno il centravanti, che prima non ce l'avevano. Che è spaventoso. E arrivo a dirti un'altra cosa, che suonerà ai più come una bestemmia in parrocchia. 800240024, sai cosa sto per dirti? Che Messi può attendere con questo Barcellona. Cioè, sì, che quasi gioca. Quasi... Sì, domani gioca, però, eh? Sì. Si possono permettere di farli aspettare. Si possono permettere di farlo aspettare, anche perché ho quasi la sensazione che quei due mostri là davanti, cioè Neymar e Suarez, riescano ad esprimersi meglio senza... No, senza quello non sono d'accordo. Però invece sulla tua frase, sulla tua cosa, la tua bestemmia, è d'accordo anche Messi. Lo sai perché? Mm-hmm. Perché ha accettato di andare in panchina. Quindi vuol dire che la pensa come te. Cioè, non ha deciso lui di andare in panchina? Beh, sì, ha deciso lui. Perché sennò... Cioè, ha deciso lui, perché sennò, se lui vuole giocare, gioca. Appunto. Non ha giocato, vuol dire che ha deciso che va bene, che potevano aspettare. Sì, perché sì, lo sai com'è, abbiamo detto ogni, no? Ogni volta che ci sentiamo lo diciamo, decide lui. Se finisce in panchina, vuol dire che ha deciso lui di andare in panchina. Quindi e ha deciso di giocare domani con la Roma. Sì, vabbè, perché ha bisogno di minuti, è anche giusto, ci sta. Però non sono d'accordo quando dici che i due giocano meglio senza lui, perché se tu ricordi la seconda parte, dopo il dramma di Anoeta, no, di San Sebastiano, con la panchina di Messi e Neymar, dopo giocano sempre e avevano dei numeri stratosferici. Quando arrivano al triplete, cioè il triplete dei trofei, ma anche il triplete dei tre attaccanti, che era mostruoso. Per cui no, lì non... diciamo che Neymar è uscito un po' dall'ombra ed è cresciuto ancora di più, questo sì. Però che i tre giochino bene insieme... Ah, ma sto forzando le cose, sono tre giocatori mostruosi. Però invece quello che dici tu, che si può aspettare Leo Messi, è vero. Possono permettersi. Questo Barcellona abbia più varianti di gioco e quindi sia ancora più spettacolare, sono d'accordo, a me piace di più. Ciao Filippo. Ciao. Buon lavoro. Ciao, grazie. Filippo Maria Ricci. Allora, ora, prima di... Elio da Firenze, Antonio da Treviso con Giannini, 800240024 è il numero verde. Vi voglio far sentire il podio delle dichiarazioni domenicali, che sono molto divertenti, qui se ne aggiunge una quarta che invece non ho in audio, ma ve la leggo più tardi. Allora, queste le tre voci top, a cominciare da quella di Vincenzino Montella dopo la sconfitta di Udine. Vorremmo capire la scelta della Smart per fare il viaggio più lungo possibile, insomma. Avevo, no? Solo quella. Da Roma a Genova. La Fiorentina mi aveva levato anche la macchina. Tutto, ha perso tutto. Allora, facciamo una colletta. La Fiorentina mi ha levato anche la macchina. Al di là della colletta, mi ha levato anche la macchina. Secondo gradino del podio, Maurizio Sarri. Penso che la fase offensiva a volte sia determinata molto più dai giocatori e non dagli allenatori. Nella fase difensiva chiaramente mi sento leggermente più coinvolto, quindi il fatto che questa squadra stia diventando solida mi dà soddisfazione. Però diciamo che questo è merito della mamma di Insigne e della mamma di Higuain, e la fase difensiva è merito del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Capito, merito della mamma di Insigne e di Higuain, Maurizio Sarri. Mi piace molto di più così rispetto a quando si nasconde dietro al paravento di massimo da terzo posto. Ma no, ma non esagerate, quella parola non la voglio dire. Antonio Treviso, buongiorno. Ah no, aspetti, Antonio da Treviso, perché ho il primo gradino del podio, che è Gasperini, dopo l'incredibile finale della partita tra Genoa e Sassuolo, vinta dal Genoa in quella maniera che conoscete. Possiamo dire a tutti quanti cosa hai scritto sulla lavagna appena entrato nello spogliatoio? Scritto in grande "bravi imbecilli", che riassume un po' il finale, no? Nel senso che è una partita condotta anche bene, una partita molto difficile, molto combattuta, ma noi abbiamo fatto veramente un'ottima gara e si è raggiunti al 93esimo, fare gol al 94esimo, da dimostrazione come questo sport sia diventato veramente di un equilibrio pazzesco. Eh sì, bravi imbecilli. Poi c'è Pavoletti, su cui si potrebbe aprire un altro capitolo, un capitolo su Pavoletti che in questo momento è uno dei più forti attaccanti italiani, ed è inutile nasconderlo. Potremmo aprire un capitolo su Berardi, per il quale a questo punto il soprannome Psycho è assolutamente meritato. Potremmo anche aprire un capitolo su Destro, che da molti è stato criticato per l'esultanza dopo il gol con la Roma. Io rivendico il diritto dovere degli ex di esultare come forsennati segnando la loro ex squadra, soprattutto si sono magari sentiti trattati non benissimo. L'unica cosa è che se ti togli una maglietta e becchi ammonizione, meriti una multa quantomeno, perché queste cose sono da dilettanti. Però il sacrosanto diritto di dovere di esultare al gol alla ex squadra, secondo me lo rivendico, e in questo faccio un applauso a Destro. Antonio da Treviso, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere stato convocato. Grazie a lei. Sa chi finisce fuori dal podio delle dichiarazioni della settimana? Ma cioè fuori dal podio perché non abbiamo l'audio. Sa chi sale comunque metaforicamente su questo podio? Blatter. No. Sa perché? No. Come? Blatter, sa perché? Ah sì, beh, immagino perché. Perché? No, perché poveretto è stato ricoverato perché ha avuto un malore mentre stava visitando la tomba di famiglia, e fin qui, cioè, non scherziamo su questo. Però la sua dichiarazione, insomma, è questa: ero fra il canto degli angeli e il fuoco del diavolo, ma alla fine hanno vinto gli angeli. E poi in questo momento di estatica ispirazione aggiunge: Platini è un uomo onesto, se potrà candidarsi e sarà eletto sarà un buon presidente. Capito? Antonio, mi dica. Se lo dice lui. Appunto. No, niente, intanto sono d'accordo sul discorso di Destro, che ha esultato, esagerato, però ci stava, ha preso la munizione, però ormai. No, la munizione è una stupidaggine, cioè prendere la munizione, esatto, perché levi la maglietta è veramente un'idiozia, secondo me. E non da giocatore professionista. Mi sembra che salti sì, la prossima partita. Sì, quella è una cosa non da giocatore professionista, che merita di essere sanzionata dal club. Però sull'esultanza insomma, non fanno grinza. Io detesto quelli che segnano alla squadra in cui hanno giocato magari per 10 partite e fanno la faccia di quelli che gli è morto il gatto. Questa è una cosa che trovo di una... insomma, non mi piace, è una cosa che a me dà fastidio. Dica, Antonio. Che sono incazzato nero. Per cosa? Con Berlusconi. Con Berlusconi. Con Galliani. Con Galliani. Con Mihajlovic. Con tutta la rosa del Milan. Cioè, ma è possibile? Impresentabili. Impresentabili. Ma come? Cioè, non è una cosa che non stanno in cielo né in terra. Ebbene, ci avessero messo la grinta e allora dire vabbè, è andata così. Ma zero, zero, zero, zero. Sono d'accordo. Zero. Sono d'accordo sul fatto che prendi Mihajlovic perché è quello con le palle, perché è quello che, come ha detto Pardo prima, con la mascella in fuori. Hai bisogno di un comandante, di un condottiero che quantomeno ti dia il fuoco dentro, l'ardore agonistico. Il Milan non ha nulla, sotto il vestito rosso-nero non c'è niente, cioè non c'è neanche la cattiveria agonistica, che è il minimo sindacale che ti puoi aspettare soprattutto nei momenti difficili. Ma aggiungo anche che questo Milan non è molto diverso da quello di Inzaghi, da quello di Seedorf, dall'ultimo di Allegri, depresso e deprimente. Viene da pensare che alla fine i casini societari e questo momento che sembra di transizione in qualche modo influiscano su tutto l'ambiente. Elio Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo un po' riagganciarmi al discorso di Rafa Benitez. Volevo semplicemente dire questo. Questo signore ha attraversato un po' il nostro territorio da Milano a Napoli, con risultati un po' sotto gli occhi un po' di tutti i tifosi delle varie squadre. E io vorrei dire questo, invito un po' tutti i presidenti delle società a cominciare a capire che bisogna investire nella nostra italianità, quindi il buon Sarri e tanti altri diversi altri ottimi allenatori, tra cui menziono Sassuolo e Empoli e tanti ragazzi importanti. Beh, Ventura che ha rinnovato il contratto, quindi no, prosegue la sua storia d'amore, esatto, con il Toro. Non buttare su questi personaggi, ma bensì metterla a reddito nei vivai e tirare fuori dei bravi ragazzi italiani, che l'Italia è piena, è sì, strapiena. Però guardi, io non la metterei sullo spirito nazionalistico, cioè sinceramente se un allenatore è bravo, fossi un tifoso mi importerebbe poco se viene dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania o da un altro paese, così come ai tifosi del Real Madrid, del Chelsea, di tutte le squadre che ha attraversato importava nulla che Carlo Ancelotti fosse italiano. Non la metterei sull'esterofilia, la metterei sulla qualità, che è un discorso un po' diverso. Poi Benitez è spagnolo, ma in questo momento è l'allenatore più detestato di Spagna, almeno il più amato dai tifosi avversari, facciamo così. A proposito di allenatori, dicevo prima che le due cose più comiche che ho visto in questo weekend sono stati l'approccio alla partita del Real Madrid, l'approccio al classico del Real Madrid, e il licenziamento dell'allenatore campione d'Italia di basket, Meo Sacchetti, che dopo il triplete, dopo essere diventato meritatamente re di Sardegna, è stato esonerato l'altro giorno dal presidente Sardara. Ciao Gerry De Rosa da Sky. Ciao Carlo, buongiorno. Come me la puoi spiegare questa? Dal fatto che insomma i presidenti fanno i presidenti e la riconoscenza, diciamo, non è di questo mondo, non solo quello del basket, non è di questo mondo la riconoscenza, e che c'era sicuramente già l'anno scorso qualche problema di relazione fra i due, fra Sardara e Sacchetti, di cui non nessuno sa di preciso l'entità se non loro due, e che credo che se Sassari non avesse vinto lo scudetto, insomma, il rapporto si sarebbe interrotto lì, e quindi a un certo punto Sardara ha dovuto dire sì, sono contento di aver vinto lo scudetto, ma fino a un certo punto, diciamo. Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana, e cioè Sassari non ha la storia del Real Madrid, voglio dire, per la prima volta incredibilmente, meravigliosamente arrivato in cima al mondo del basket. È chiaro che è una questione personale, non è certo una questione tecnica o tattica. Sì, questa. La sensazione dall'esterno è proprio questa, anche perché comunque la storia di Sacchetti a Sassari dal 2009 in poi è ricca di momenti come questo. Nel 2009, il suo primo anno, perse 6 partite di fila, non in Eurolega ma in Lega 2, e alla fine colse la promozione. L'anno scorso, di questi tempi e ad aprile, era più esonerato che allenatore di Sassari, alla fine ha vinto lo scudetto. Quindi dei dati, degli indizi per avere pazienza c'erano, e come, fa parte della storia di questa squadra e del modo di giocare di Sacchetti, che vive di tanti alti ma anche di qualche basso, più di altre squadre, diciamo così, dal gioco più schematico e organizzato. È fisiologico, secondo me, che Sassari viva di alti e bassi. L'anno scorso però il vero alto l'ho avuto nel momento decisivo della stagione, questo è sicuramente merito di Sacchetti e del suo staff. Certo, ma poi per l'osservatore marziano dice: ma come, vinci lo scudetto, ti smonta la squadra, che accade, cosa che accade regolarmente, ma io dico anche in maniera legittima, perché poi ci sono giocatori che vanno a giocare per molti soldi in altre piazze, questo è legittimo, però ti smontano la squadra, devi rifarla da capo tutti gli anni, hai appena vinto lo scudetto, capisci che infatti il marziano che arriva in Italia dice ma... No, ma infatti poi fra l'altro con i budget che ci sono in Italia e anche quello di Sassari non è elevatissimo, seppure più alto di altre squadre italiane, comunque succede anche di non azzeccare lo straniero, sì, l'americano, eccetera, e quest'anno il problema di Petri, per esempio, è molto grosso e fanno fatica a risolverlo proprio per le caratteristiche umane di Petri, oltre che quelle tecniche, e questo non lo puoi sapere finché un giocatore non lo alleni. Chiaro. Arriva dalla finale di Eurolega, arriva dall'Olympiacos, è sicuramente con delle credenziali migliori rispetto a quelli che sono arrivati l'anno scorso e che hanno vinto lo scudetto, però questo fa parte del gioco e bisogna saperlo accettare. Ma poi gli americani alla fine si cambiano, quindi c'è facoltà di sostituirli, cosa che anche Milano dovrebbe fare nonostante la vittoria di ieri su Venezia. Un'ultima cosa, Gerry, come la vedi la Cantù russa che ieri ha vinto a Caserta con Hodge, che è il nuovo arrivato che ha fatto un ventello? Guarda, è una vera scossa per l'ambiente, perché diciamo questo signore è davvero molto ricco, e quindi volendo, se volesse mettere i soldi che ha davvero nella pallacanestro, potrebbe rappresentare davvero una svolta notevole. notevole sia in termini di possibilità di mercato, di possibilità di acquisizione dei giocatori. Non ha ancora ben chiarito le sue intenzioni. Probabilmente è arrivato e ha portato subito un signor giocatore che è Walter Hodge e che subito ha avuto impatto, però non sono ancora ben chiare le sue intenzioni. Da un lato io sono davvero incuriosito da quello che può fare, dall'altro vedo però che l'altra sua squadra, quella di Volgograd, Ottobre Rosso, che è nata pochi anni fa, è già in fase di smantellamento e diciamo questo aspetto mi preoccupa un po' ma di perché più. Si è innamorato di una nuova creatura, infatti dai. spero che sia questa l'intenzione, si è innamorato di una nuova convinto creatura. Diciamo così. Poi al figliolo che gioca lì nelle giovanili, no? Sì, esatto, il figliolo tende a crescere e poi vedremo. Gli ha comprato una squadretta, vieni che papà ti compra la squadra. Jerry, grazie mille. Grazie a voi, Jerry, ciao Rosa, a tutti. Nota voce di Sky, con lui chiudiamo questa puntata, al termine quale ringrazio Alessandro Marco Tulli, Giovanni Melchiori e in regia Gianmarco Ferronato. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.